8:01 primo. Qualcuno pagherà per questo minuto. Che si chiama Spadino. Maledizione! La tua colazione rock. Iniziamo la seconda ora. Ogni giorno alla mattina ascolta. Reduci da una prima sessantina di minuti bella ricca. Vi saluta l'Ariele e Mister Trombetta. Con noi anche quest'oggi Roberto Fricantoni, ma soprattutto i mille contatti al nostro numero di SMS 335 100 7777. In maniera inaspettata stiamo sdoganando la musica liscia. Pensavo la pigliaste male, invece guardate, anche la mia donna è romagnola, ascolta il liscio da generazioni ed è sorpresa, o meglio contenta, di sapere che anche lei è sempre stata una rocchettara. Ciao Tom e Elisa da Firenze barra Riccione. Salutiamo anche Mattia, allora, suono nella banda folcloristica di Dozza Imolese, nella quale il liscio è importante, ne vado fiero, però il rock è essenziale nella mia vita. Non sono l'unico e saluto Filo. Ciao Mattia! Ma attenzione, perché è martedì, quindi sapete che qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll il martedì e il giovedì si danno i numeri dell'otto, o meglio, li dà Carla, la nostra sciura Carla. Io inizio la seconda ora di quest'oggi con un messaggio che mi arriva da Firenze. Ragazzi, ho vinto 230 euro con i numeri di Carla. Grazie. Prego. Hai capito? Dai che la chiamiamo che si festeggia un po' allora. Potremmo fare anche un gemellaggio con la tabaccheria fiorentina. Ci stai? Lorenzo, ti va? Mettiamo su un business qua con la Carla, eh? Io lo sapevo. Antoni, cosa c'è di bello al mattino? Una tazzuriella e caffè! Sì, anche quella. La sigarettina mattutina, sì. E poi aprire, sì, il giornale, sentire l'odore della carta stampata. E con un orecchio ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. Bravo, ma perché metterci noi a sbirciare il giornale quando può farlo per noi Isacco Rizzi? Esatto. E magari selezionare per noi quelle notizie un po' più strambe, poi se lo fa lui sicuramente un friccicorino di pruderie ci sarà. Ah, sì, sì, sì, sì. Il ragazzo, infatti, è un po'. Guardala. Voglieroso. Voglier. A proposito, mi lanci la sigla, la prego. Sì. Strano ma vero. Faceva sesso con l'aspirapolvere. Licenziato. Grazie, Isacco. Grazie per la sua pruderie, dottor Isacco. Prego, maestro. Un operaio polacco è stato licenziato perché è sorpreso a fare sesso con un aspirapolvere. L'insolito strumento di piacere, un modello chiamato Henry, ha una faccia, quindi era pure un po' invertito, non, va bene, vado avanti, ha una faccia sorridente disegnata sopra il bidone e il naso che diventa il tubo. Lo strano abuso sessuale si è consumato a Londra in un cantiere situato presso un ospedale del centro. L'operaio, sorpreso da una guardia giurata, era completamente nudo e in ginocchio nella caffetteria dell'ospedale ormai chiusa. Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Fin da subito l'operaio ha tentato di difendersi dicendo al vigilante che stava semplicemente pulendo le proprie mutande con l'aspirapolvere. La guardia non c'è però cascata, l'uomo stava abusando del povero Henry, che è l'aspirapolvere. Stando a quanto riportato sulle pagine del Sun, l'operaio era rimasto solo nel cantiere perché era suo compito chiudere a chiave tutti gli accessi al sito dove la sua azienda edile stava strutturando gli uffici amministrativi dell'ospedale. Interpellato dai suoi superiori, l'uomo ha detto che passare l'aspirapolvere sulle mutande è una pratica comune in Polonia. Non gli hanno creduto ed è stato, ahimè, licenziato. L'azienda ha però ammesso: è un comportamento inaccettabile, anche se ha fatto ridere molte persone. L'anonimo lavoratore non è però il primo sorpreso a far sesso con oggetti inanimati in Gran Bretagna. Prego, maestro, ce ne ricordi alcuni? Infatti, lo scorso anno Robert Stewart fu condannato a 3 anni con la condizionale dopo essere stato sorpreso nudo mentre tentava di far sesso con una bicicletta. 1993, Carl Watkins, elettricista, fu condannato per aver fatto sesso con i marciapiedi della sua città, nel Yorkshire. La città di Reddick. Complimenti a tutti e tre. E io farei un encomio speciale per quello dei marciapiedi, perché far sesso con un marciapiede è un'idea molto originale. Io chiudo gli occhi e me lo immagino. Incompreso. Se mi è concesso, deve essere anche abbastanza dotato il ragazzo. Non ci ho pensato, riflettiamo. I love the way she twitches, T-Rex di Hot Love. È giornata impegnativa quella di oggi a Pane, Burro e Rock and Roll. Io ufficialmente lancerei allora l'appello. Stiamo cercando ricevitorie, tabaccai. Allora, ne servirebbe uno a Genova per coprire tutte le frequenze e uno in Romagna. Quindi se ci state ascoltando, non dovete fare altro poi che il martedì e il giovedì esporre quelli che potremmo chiamare i numeri di Carla, visto che stanno uscendo. Per ora a Milano siamo coperti. Da oggi si aggiunge la tabaccheria a Firenze. Io dico, se Genova e Romagna c'è qualcuno interessato, 335 1007 777, mettiamo su un bel business, ragazzi, con Carla. Mentre ne approfitterei per salutare un po' di amici, parto dalla patente 128. Ciao Ariele, a tutti quanti una domanda: ma Tempesta d'amore, la soap opera che va in onda la sera su Rete 4, è rock? Lo so, ne ho la più pallida idea. Saluti anche a Ricca da Grosseto, che ieri mi ha compiuto 30 anni, via! Contento che arriva Rock FM oggi fino a lì, deve essere il vento, ragazzi. Saluti a Tiziano, saluti al Pinguino, a un altro che mi compie 36 anni, ci vuole Mister Trombetta, che io possa divertirmi e suonare tanto, bravo, ottimo. Salutiamo Gian e apprezzo anche la proposta del patentato 883, che per quanto, tornando a bomba sulla musica liscio, propone di far girare la voce che sia satanica, tipo Lisci Satan e Lisci Satana Leppe. Il liscio è la vera musica del diavolo. Potrebbe essere una campagna carina questa. Altri saluti, vediamo, il 31 marzo alle 7:30 mia moglie farà il cesareo per far nascere Federico. Essendo già rock, ancora prima di venire al mondo si è fatto la sua nicchia e non si sposta. Facci sapere. Salutiamo un altro patentato, Michele, 1094. Ho lasciato la ragazza a letto, sono in macchina verso il lavoro con PBR, stasera parto con gli amici per surf trip. È rock? Oh. Il surf è decisamente rock. Ho lavorato 2 anni in un'orchestra del liscio, su 7 componenti, 5, compresa la sottoscritta, eravamo rocker, firmato Scendi. E continua questo sdoganamento del liscio rock. Perché non fate come le radio più blasonate, mettete una bella webcam, così vi possiamo vedere in diretta in streaming? Ci lavoreremo. Alcuni li devo tagliare però, ragazzi. Ecco, esatto, forse è meglio che proseguiamo. Hey, mama, said the way... Led Zeppelin! Make you sweat! All right. Make you groove! Black Dog! We'll be right back. pane, burro e rock and roll, potranno pensare gli amici là fuori, ma non solo. Ma non solo, ma c'è dell'altro. Se io le dicessi pane, nduja e rock and roll, cosa le verrebbe in mente? Per associazioni di idee penserei subito al contributo del dialetto calabrese. Direttamente da Catanzaro dovrebbe essere in linea con noi anche stamane il dottor Pietro. Ti applaudiamo. Ariel, buongiorno, dottor Fick. Buongiorno. Compare Pietro, tutto bene, tiriamo avanti. La sigla sempre pane, nduja, rock and roll. Pane nduja e rock and roll. Dovremmo cambiarla, a me piace di più di pane, burro e rock and roll. Va bene, la possiamo adattare sì, per alcune. Sì. La nduja non è proprio la colazione in quanto piccantissima. Beh, molto di nicchia, insomma. Sì, molto calabrese. Molto particolare, calabrese. Calabrese. Mio caro Pietro, in che parte del dialetto catanzarese ci aggentiamo quest'oggi? Oggi ritorniamo sui proverbi. Oh, bene, bene, bene, fa sempre piacere. Maestro, è pronto? Sì, è concentratissimo. Prontissimo. Beh, questo è quasi dedicato a pane pure rock and roll. Un proverbio specifico. Allora, disse l'usurice alla nuce. L'usurice è lei, sicuro. L'usurice è Frick, ci metto le palle sul fuoco. Alla nuce? Mi scusi, lo ripeta, mi scusi, sto zitto. Allora, lo dico tutto, sì. Poi torniamo. Sì, d'accordo. Allora, disse l'usurice alla nuce, dammi tempo catecupo. Ah, disse il resto topo alla come pulce, dammi tempo che t'ammazzo. Alla nuce. Alla nuce, cos'è? Io ho tradotto. La noce. La noce. Ah, disse il sorcio. Il sorcio, il topo, alla noce, dammi tempo che t'uccido. Che ti buco, sì, che ti mangio. Ah, quindi che chi la dura la vince, cioè. Chi la dura la vince, la nicchia vincerà. Eccoci. Storici, ha ragione. Fantastico. Dunque. Come faceva lei a sapere la traduzione, Frick? No, ci ho provato, mi sono buttato. Ha avuto fidanzate catanzarese. Diverse. Si sentiva. Allora, disse usurice, che è un sorcio. Usurice. Esatto. Sì. Alla nuce, che è la noce. La noce, sì. Dammi tempo che te cupu. Dammi tempo che te cupu. Cate cupu. Cupu. Che t'ammazzo, ti secondo buco. Me. No, ti no, buco. Letteralmente ti buco. Cupu proprio è ti buco, ti rosicchio. Cioè, ti faccio buco per mangiarti. Ho capito. Alla dottor lettera. Pietro è stato veramente fenomenale. Un proverbio dedicato a pane, burro e rock and roll. Cosa grazie, possiamo fare? Un applauso da parte nostra. Alla grazie, prossima. Grazie, dottori. Allora. Troppo buoni, guardate. Troppo buoni. Pane, nduja, rock and roll. Arrivederci. volte mi soffermo a pensare alle grandi coppie del rock and roll. Eh sì, dice bene DJ Ariele perché sono state favolose. Fricantoni e Ariel. Per esempio. Una. Non so, John Lennon e Paul McCartney. Bravo. Sonny e Cher. Ah, stupendo, non so. Mick Jagger e Kate Richards. Bravo, bravo. E oggi il test attitudinale si occupa di coppie celebri. Perché capita che coppie di artisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del rock si conoscessero da sempre. Ma sì, come John e Paul, no? Esattamente, oppure ipotizziamo che fossero addirittura compagni alla scuola elementare. Ma certo, certo. È il caso degli artisti del oggetto quiz, del test attitudinale di quest'oggi di oggi. Che non solo fecero la scuola elementare insieme, ma le cronache raccontano che la loro prima esibizione in pubblico si può far risalire a quell'epoca, quando in una recita scolastica interpretarono rispettivamente il ruolo del Bianconiglio e dello Stregato in Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. E allora, di chi stiamo parlando? Ipotesi A: Fricantoni e Dandy Bestia degli Skiantos. Oppure ipotesi B: Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith. O infine ipotesi C: Simon e Garfunkel. Chi di queste coppie fece il Bianconiglio e lo Stregatto? La soluzione a poco dopo e c'è la risposta esatta a fra poco. Pane Burro Rock and Roll ti aiuta a mantenere gengive forti e a proteggere i denti dal tartaro. Pane Burro e Rock and Roll, la forza delle gengive, la vita dei denti.